Tu continui a dire porcheria, insulti tutti, interrompi, perché sei cafone nell'anima. Sei l'unico ebreo fascista che io ho conosciuto nella mia vita. Sei ebreo e fascista. Grazie, sì, Vittorio. Sei un fascista. Ciao, grazie. Ciao. Senti, scusa, fammi dire un'ultima aspetta, un'ultima dopo cosa. La pubblicità. Senti, però, dopo la pubblicità. No, subito. Dimmi. Dia a Parenzo andare a fare in culo. Ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Se non hai argomenti, stai zitto, Pistolino. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sabato sera si sono vissuti momenti di sconcerto e di indignazione. Qualcuno è entrato illegalmente nel sistema di filodiffusione, fatto impiantare dal comune per le strade del centro, e ha sostituito le melodie dei canti di Natale con un audio di tutt'altro genere. Questo signore è porno attore, sex coach, bodybuilder, tatuatore, ce le ha tutte, soprannominato il barattolo, signor Giaffa XXX. Io, caro Luciani, Paranzo, buonasera, te lo manderei una sera a casa tua. Viste le dimensioni ridotte, come ha detto prima l'ascoltatore, eccetera, lui è detto il barattolo perché evidentemente, caro Giaffa, le tue dimensioni in termini di larghezza devono essere... Sì, essere un po'... Sì, ho 19 per 19. Ma questo è un... 19 centimetri di larghezza è possibile, dai, oggettivamente. No, 19. Vabbè, di circonferenza. 19 di circonferenza? 19 di circonferenza. Cioè, è un po' più largo del tubo dello Scottex, va? Lei non si stupirà... Un po' più largo del tubo dello Scottex. Lei, signor barattolo... Non si stupirà lei, signor Barattolo, se domani questa conversazione non verrà riportata dal Sole 24 Ore, né tantomeno dal Corriere della Sera. Io spero che almeno lei non... Sì, per denunciarci probabilmente. Io spero che il signor Barattolo, perché adesso della mia vita tante cose ho immaginato, ma io chiedo scusa ai miei genitori pubblicamente, scusate, mi avete fatto studiare, e io mi trovo qui in imbarazzante compagnia del signor Barattolo. Io vi chiedo scusa. Sai, Parenzo, chi è che non parla di sesso in pubblico? Quelli che hanno i lati oscuri, le dark sides. Hai presente quegli aspetti caratteriali che è meglio che si tengano nascosti? Sei pericoloso, fai paura, David. Sei inquietante, hai un qualcosa di inquietante, e non parlo del cazzo monco, in generale. No, secondo me stavo appena finito la mia preghiera davanti all'altarino per... che stramaledice Parenzo, l'altarino che ho fatto solo per stramaledire lui e il percorso sanitario da seguire, che appena ci entri un pelo dentro, bam, ti attaccano subito il Covid. E poi il bello è che tamponi non te lo fanno vedere, ti dicono che ce l'hai e non hai niente. Mamma. Hai capito? Brutto bastardo. Parenzo, sei una merda, te e i percorsi sanitari. Te e tutte queste cose che pubblicizzi sempre solo te. Maledetto, adesso mi devo pregare un'altra mezz'oretta davanti all'altarino. Ma te sto mandando tante, guarda. Signor Rider, signor Rider ha fatto un altarino, un altarino con Parenzo per maledirlo, il Rider in diretta da Roma, David Parenzo. Buonasera. Oggi, a differenza delle altre volte, non vi darò aggiornamenti sul contagio, sulla pandemia ormai conosciuta in tutto il mondo. Bensì, grazie al cazzo. Né vi darò aggiornamenti sulle modifiche che il decreto sta per essere licenziato, sugli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno, in arrivo il nuovo provvedimento. Ma vi darò una notizia lampo e poi mi taccio. Una notizia che mi ha colpito molto oggi: le fughe misteriose dei gatti di casa nostra. Un'inchiesta straordinaria pubblicata oggi dal quotidiano Libero e vergata da una columnist di primo livello che si chiama Azzurra Barbuto. A tutta pagina la signora Barbuto ci informa in questa inchiesta che i gatti o si allontanano per amore o per protesta, e c'è un micio che sparisce sempre a dicembre. Andate a fare in culo. Perfetto. in diretta. Andate, ho detto, però andate. Cioè, non è riferito a uno in particolare, no, è andate, no. Complessivo e globale. No, sì, no, poi dopo. In diretta da Padova, sì. Alberto Gottardo. Ti correggo, Davide. La fuga dei gatti da casa mia. Cioè, la Barbuto racconta che neanche i gatti stanno a casa con lei. Sì, bravo, e io sto dalla parte dei gatti. Ha ragione, hanno ragione i gatti che scappano, si suicidano, si buttano giù dal quinto piano pur di non stare a casa con questa qua. Allora ragazzi, ecco. Tutto il mondo spera nell'arrivo dei vaccini e noi abbiamo in casa nostra un magnifico personaggio, il signor Petrella, il medico di Teramo, negazionista, un personaggio ragazzi fantastico. Con il lanternino tu sta zitto perché se ti dovessero dire ti somministriamo il vaccino cosa faresti? Gottardo non l'ha ancora detto, cosa faresti? Te lo somministri o no? Sai perché non me lo farei? Quello deve essere il primo speaker in Italia che fa il programma radiofonico da malato e prende per il culo quelli che sono terrorizzati. Io vorrei ridere non solo al casello di Carisio ma ogni volta che mi viene un colpo di tosse per il Covid. Cioè tu vorresti prendere il Covid, non ho capito, cioè. Sì, sarebbe un grande messaggio di positività. È facilissimo, accomodati. Vai in un reparto e via. Gira senza mascherina, abbraccia chiunque, vai. Il Brasile gira senza mascherina, non sei mai malato. Il Brasile ha un corpo un po' diverso dal tuo, caro Alberto, voglio segnalarti che il signor Brasile. Spero di essere comunque Petrella, ragazzi, Petrella. Partiamo da questa cosa, se cade un cibo per terra mangiatelo che vi immunizzate, ti giuro. Se cade un cibo per terra rafforzi il sistema immunitario, sì. Questo è il concetto, però insomma se cade un cibo per terra uno di solito non lo mangia, però va bene, per carità. Dipende. Il sistema immunitario funziona perché tocchiamo cose. Il bambino si immunizza perché tocca un po' di tutto. Questo pure è vero. Quello che ho sempre detto ai miei nipoti: quando voi state all'aperto, toccate quello che vi pare, non succede nulla. Se cade una mela per terra, la raccogli e la mangi, non succede nulla. Qualsiasi cosa pulisci, che cade per terra, non succede nulla. Perché voi vi immunizzate. Ma questo è il dottor Morte. Scusi, ai tuoi bambini. Puoi dire tranquillamente, a casa tua se cade una cosa per terra arriva subito la signora a raccogliere subito la donna di servizio, insegniamo noi bambini a raccogliersi le cose da soli e a farlo anche a rifarsi i letti da soli, ma il tema non è questo qui, il tema è dove ha studiato questo, nella Germania del 33. Posso segnalarti che ha incredibilmente preso una laurea in medicina, cioè incredibilmente preso una laurea lunga in medicina. Probabilmente il buon senso di dire che, come dire, ad esempio Sono più immunizzati di noi per certi aspetti. Distruggiamo il virus se lo contraiamo. Senti. Il nostro organismo impara come distruggere il virus se lo contrae. Ma se voi non ci date questa possibilità, questo è curioso adesso. Come facciamo noi a immunizzarci? Dobbiamo uscire senza mascherina. Se arriva a questo punto, questo è gottardiano. Gottardo che dice che volesse lo prende, dovrebbe uscire senza mascherina. Come no? L'hai detto prima. Allora, chiariamo una cosa: la mascherina serve per non contagiare gli altri. Allora, io come se tutti la portano, se potessi. Io come scelta personale, se potessi mi contagerei, ma siccome non voglio, nel dubbio che io sia positivo, magari asintomatico, stai a fa la supercazzola allora, non voglio contagiare gli altri, allora anch'io mi metto la mascherina. C'è una grossa differenza. Ma che dici, dai? Poi se prendo il Covid non mi fa un cazzo. Paraculo che non sei altro, dai. Non te lo auguriamo. Dobbiamo uscire fuori senza mascherina. Vuoi avere un sistema immunitario che ti difende o uno che non è in grado? Ragazzi, il modo per costruire un sistema immunitario è attraverso il contagio con virus e batteri. Sentite questo pezzo: al centro commerciale sì, ma al bar no. Senti, questo è pure vero, senti. Posso andare al centro commerciale, erano 25 persone lì, ma se voi andate al centro commerciale, stanno lì che stanno a distanza, uno attacca, uno lo culo dietro all'altro, ci vado io, nessuno dice niente, stanno là raggruppate, vicino, eccetera. Quindi le 25 persone stanno lì, posso stare in fila post 10 minuti, ma non posso andare al bar per 10 minuti. Ma devo andare al bar che non ci vado più, per perché devo prendere il caffè, poi me lo devo andare a prendere fuori che piove, che c'è il temporale. Non ci fate proprio. Su questo non ha torto. Scusa, cioè, Giuseppe, dimmi. Oggi tagliandolo l'ho ascoltato 40 volte e non ho capito, ma le 25 persone stanno lì o no, stanno sono là? In fila, sono in fila lì e là. Però posso dirvi una cosa, ragazzi, su questo però Pedrella sarà matto e dopo sentiremo delle follie. Su questo non c'è dubbio. No, ma non ha torto però su questo, cioè, al bar, no, ma dimmi qual è la logica. Nessuno capisce la logica. Puoi stare in fila, cioè, in fila in un negozio ed è giusto, secondo me, che tu, se vuoi stare in fila, stai in fila, non ci starei manco per il cazzo in fila davanti a un negozio in un centro commerciale, distruggi l'economia. Non mi piacciono le file, potranno non piacermi le file. Tu hai i tuoi percorsi di elite. No, non c'è nessun percorso di elite, non faccio le file per andare dove ti pare. Ma quale tessere? Ma quale tessere di cosa? Perché ti portano le cose a casa. Ma cosa c'entra? Ma no, preferisco non fare le file, sarò come noi, non vai nei negozi normalmente come noi, ma dove c'è la fila non vado. No, non mi piace fare le file. No, ma non mi piace fare le file. Ma noi il regime speciale ti portano le cose a casa. Se vedo una fila me ne vado. Mi fate servire con le cose a casa. No, se vedo una fila me ne vado. E poi parlate delle piccole botteghe che chiudono. Vergogna, vergogna, vergogna. Primo, sei una vergogna. Secondo, distruggi l'economia locale. Terzo, sei a favore delle grandi multinazionali. Senti, gli scienziati attenzione, Pfizer. Attenzione, attenzione, attenzione. Ti do una notizia. Ti sto girando il messaggio. Il demone scimmia è d'accordo con Pedrella. Dice che Pedrella ha ragione. Ovviamente. Gli scienziati Pfizer hanno programmato la distruzione di massa. Ma chi ha detto sta roba? Eccola qua. Sempre Pedrella. Qui si inizia la parte. Ma cosa? Ma non devi mandarlo in onda. Cioè, ma come no? Come no? Tutti fanno il tifo per la Pfizer, Burioni. E noi sentiamo Pedrella. Dai, che funziona. Su. Non funziona niente. Cosa hanno detto due scienziati che hanno lavorato nella Pfizer come ricercatori. Questi hanno programmato non solo la distruzione di massa adesso, ma anche quella del futuro. Con il vaccino ti potrebbe venire un cancro, sostiene Pedrella. Oltre che venire mutati, senti. Non sappiamo cosa succederà dopo un anno dalla vaccinazione, a parte che sono già morti due persone, non più sono morti. Che io sappia, un anziano di 70 anni lì della provincia di Modena. Quindi non sappiamo cosa succederà dopo un anno alla vaccinazione. Verrà un cancro al vaccinato? Sì, ma chi te l'ha detto? È possibile? Non sappiamo noi questo. Non perché dobbiamo niente. Fare allora, un vaccino che non ci dà certezza. Ecco, suggerisco, consiglio di farsi il vaccino a Faraone, Renzi. Tutti quelli che vogliono il vaccino. No, è possibilissimo. Arenzo, Cruciani e Gottardo, siete voi tre supercassole, siete tre prezzolati, tre scendiletto. La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ma te ne arriverà almeno una delle maledizioni che ti sto mandando, almeno una, Parenzo. C'è l'altarino qua che guarda lì. Ogni volta che dico il tuo nome si alzano le fiamme dei ceri. Guarda, te e tutti i consigli che dai. Che porta nera, ragazzi. Andate alla guardia medica, andate alle cliniche. Bam! Ti attaccano subito il Covid per fare dei numeri. Porca biforcuta, può dire queste balle qua in televisione. Maledetto. Maledetto di questa roba qua. Te capi di sta roba, fai schifo, paese. Senti. Quest'altarino che ho creato proprio solo per portarti sfiga, l'ho fatto solo per te, guarda Parenzo, l'ho fatto solo per te, proprio solo per stramaledirti il Natale, che mi hai fatto prendere il Covid, mi hai capito per colpa tua, hai detto i consigli che dai alla radio e in televisione, bisogna seguire, mi hai fatto prendere il Covid, ogni volta che dico il tuo nome, Parenzo, si alzano le fiamme dei ceri, così fanno le spiamarate, vuol dire che sta funzionando, questo è esoterismo, è magia bianca, devi sapere. voi rabbini le studiate queste cose, no? Mentre i cristiani andavano a lavorare la terra, voi stavate a studiare sta roba per fargli prestiti e culali, eh o no? Bastardo te, schifoso, maledetto antisemita, schifoso tu, maledetto. La magia nera, io ti querelo, ti porto via quel niente che hai. È solo querelo questo. Tra, io te lo dico. Lo querelo, magia nera, cose, le cose. Maledetto proprio, maledetto. Ha beccato il Covid. Ha beccato il Covid perché è scemo, eh. Allora, Azzurra fa, Barbuto. Va a fare il ganasta in giro. Attenzione, attenzione, Azzurra, Azzurra, mi state tempestando su tutti i social di messaggi di solidarietà contro il bullismo che mi usa da settimane, Parenzo. Quale bullismo? Vi ringrazio, senti, stai calmo un attimo. Vi ringrazio. Io non sono affatto arrabbiata, sono dispiaciuta semmai. Come? Non penso che certa gente sia cattiva, no, bensì che sia terribilmente infelice. Dico, è la sentenza, la sentenza. Parla sentenza di me, infelice. Sì, non certo, sono felicissimo, sì, però cioè, mi sembra di essere. Allora, a proposito delle feste di Genovese, della cocaina, sì, dello stupro, eccetera, eccetera. Ma dei gatti non vogliamo parlare? No? Dopo, c'è gatti, tempo. Scappano da casa, c'è Barbuto. I gatti, allora, che scappano da casa Barbuto. Allora, ha detto delle cose, più tardi la sentiremo, se abbiamo tempo, la signora Giulia Napolitano, che non ha nulla a che fare con il presidente, l'ex presidente della Repubblica. Ma ci mancherebbe. Ma perché Giulia, tra l'altro, si chiama praticamente come il figlio, signor Giulio Napolitano. Giulio, sì, ma là c'è stato, non inquiniamo il dibattito pubblico con Giulia, né pronunciare il suo nome perché lo conosco, Giulia, Giulia Napolitano, Napolitano. Giulia Napolitano, Giulio Napolitano non apprezzerebbe essere citato qua, te lo dico io. Ma come Scurati, frega anche me. Scurati mi ha detto, guarda, se mi sei amico non mi citare, va bene, chiedo scusa, sì, e tu, guarda, se mi sei amico, io dico, guarda, sì, molto, e apprezzo i tuoi libri, in particolare anche l'ultimo, e strepitoso, Zanzare, che ho no, non disprezzo, però ho detto, posso chiederti una cosa, non mi citare, dico, guarda, volentieri, perché ti voglio, lo cito ogni giorno. Ti sei un grande scrittore italiano, uno dei più grandi. Allora, mi hanno offerto, sostiene che le hanno offerto 15.000 euro in una di queste feste. Lei fa la ragazza immagine, dice di non avere mai fatto nulla di più di della ragazza immagine. Mi hanno offerto 15.000 euro per il lato B. Questo è molto interessante come dibattito. Se vi offrissero 15.000 euro per il lato B, che sostanzialmente è il culo, ragazzi, questa è la sostanza. Sì, però il lato esplicitare. B, cioè, no, occorre sempre esplicitare, rendere chiaro quello che non è chiaro. Non occorreva però si sa 15.000 euro, ragazzi, io un pensierino ce l'avrei fatto se uno sta scannato, no? Tu, eh? Lei sostiene no, io no, 15.000, ho detto 200.000 all'epoca, per cui 15.000 se uno sta scannato, ma lei stessa lo dice, sentiamo. Non ho mai fatto uso di stupefacenti, non ho mai ceduto a cifre anche molto a... Io sono arrivata ad avere davanti una persona che mi ha offerto, e dico tutto, per il lato B, 15.000 euro. €15.000 per il lato B. E non ha detto com'è finita, tra le altre cose. No, ha detto di no, ha offerto e ha detto di no. Ah, ok, no, perché non ho sentito l'audio. Rimanevo col dubbio. Manuel da Roma, ragazzi, vi leggo questa cosa di Di Maio. A Natale e a Capodanno permettiamo ai cittadini di spostarsi tra i piccoli comuni. Cioè, ci hanno detto che era una cosa fondamentale contro il contagio. Adesso la spinta dell'opinione pubblica, la spinta dell'opinione pubblica e della gente che oggettivamente vede questa cosa come una follia, costringe il governo a fare un passo indietro. Ma è serio? Io sono a favore, ho sempre pensato che fosse una buffonata quella roba lì, ma un governo serio prende una decisione impopolare, no? Se pensa, se pensa che questa roba qui serva, morti, perché torni indietro? Cioè, se perché tu ogni giorno ci fai una testa così, 600, 700, no, il tema non è questo, il tema non è questo, no, il tema è, si chiama solo consapevolezza, ma non in una parola, cazzate, dai, si su sta cercando di sensibilizzare, Davide, l'opinione pubblica. Ma eri d'accordo con questa cosa? Adesso pure, certo, tu sei dalla parte del governo che dice che l'ha rinnegata. Sto dicendo che era un provvedimento molto duro per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che non vanno fatte feste. Manuel da Roma, dai, Manuel da Roma, dai, Manuel, forza, dai. Buonasera. Dai, dimmi. Se non ho capito male, prima Gottardo scherzava sul Covid, diceva che vorrebbe prenderlo. Ha detto che vorrebbe prenderlo. Scherzavo, io vorrei a titolo ma personale vorrei prendere il Covid. Ieri è morto un mio amico, un medico di Ancia, un angiologo, è morto, voi state scherzando sul Covid. No, ma ne aveva? Scherzare, adesso nessuno scherza. Ma ce n'aveva 65, era in piena salute, ragazzi, ma non scherziamo. Mi dispiace, cioè, io non lo so, non mi dispiace tantissimo. Cose, ma io a titolo personale, io a titolo personale vorrei fare una grande narrazione da malato di Covid che a se ne sbatti i coglioni. Ma cosa della dici? Propria dire? Malattia, ma nessuno, ma che vuol dire? Malattia. Ma tu la prenderesti? Ma come fai a sapere come la prendi? Alcuni l'hanno presa molto brutalmente. altri no. Prendere il Covid. Ma è pazzo, certo, ormai, certo, dai, certo, è pazzo. Vorrei prendere il Covid e farli dirette da casa mia. Ma non zanzara. Vuol dire niente. Sì. Alcune persone sono finite all'ospedale. Non è che tu dici al Covid, certo, scusa Covid, finisce, puoi venire nel mio corpo e non uccidermi più di tanto per fare la radio. Sei pazzo ormai, sei pazzo, te lo dico io. Ti racconto una cosa. Adesso mi racconto, quando ero cronista. La Zanzara. Baggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fallotto 00240024, oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Con questa avete perso un ascoltatore, cioè non ho mai sentito un'idiozia più grossa di questa. Gottardo, già ti consideravo il più coglione dei tre, ma con questa hai proprio superato te stesso anche. Grande. Ha ragione Gottardo, finisce l'ospedale, penso lo prende da subito il Covid. Ho avuto la mia ex moglie, che il medico di base non dava niente, neanche la guardia medica. Plaquenil, azitromicina da subito, si provava 89, 39 di febbre, in 4 giorni guarita, in 10 giorni negativa. Quindi sono cazzate perché non danno terapie, danno tachipirina che ti avveleni la gente. Quindi il problema non è il Covid, il problema è che non viene curato, che fa arrivare la gente in ospedale. Ma ormai l'hanno capito tutti, da Cavanna, Zangrillo, solo quegli stronzi che ci governano o non hanno capito o ha fatto finta di non capirlo. Gottardo, lecca i cessi delle stazioni e vedi come prendi il Covid. Quelli sono materi. Comunque ragazzi, è incredibile, caro Parenzo, è incredibile quello che accade, incredibile. Gottardo dice due punti, voglio certo prendere il Covid. Certo, vorrei l'ultimo impazzimento. Posso dire che non c'è da scherzare su questa roba, è agghiacciante. No, ma non sto scherzando, è agghiacciante. Ma non sto scherzando. Non c'è da scherzare su questa roba, Alberto. No, ti chiamo per nome. Ti chiamo per nome, Alberto, non c'è da scherzare su questa roba. Caro Davide, no, posso no, dire ma l'ultimo impazzimento gottardiano, voglio prendere il Covid per raccontarlo alla radio. Non si può scherzare su questa roba. Ma no, per portarlo alla radio, certamente farei la radio da casa mia, mi farei allestire lo studio. Ma cosa vuol dire? Ma sei matto completo ormai, sei matto completo. Ma che farei una narrazione a modo mio? Ma quale narrazione? C'è gente che è morta, non c'è nessuna narrazione da fare, Davide. Allora, ma io veramente, ma io non capisco. Ti posso dire che io Io provo sconcerto, io perché provo non so neanche più cosa dirti. Caga addosso. Ma non come è questione, mamma mia. Ma ti caghi addosso solo l'idea, di è normale delle nella vittime vita dire ammalarsi. Io mi voglio prendere il co. Ma cosa vuol è dire? È normale nella vita ammalarsi. Ma io in terapia un pazzo ormai. Io in terapia pazzo. No, non sono un pazzo. Completamente. Posso spiegare? Sei oltre il mio freccero praticamente. Prendo il Covid, dai, allora, bellissimo. Allora, sei impazzo. Davide, sei totalmente. Davide, hai detto una stronzata. Allora, no, perché hai detto una stronzata. No, no, sei una oltre stronzata. Freccero. Se mi fai spiegare, naturalmente, prendo il Covid, dai, bellissimo. Ma Parisio, hai detto una stronzata. Ci sono i morti. Ci sono stati dei morti. Bene, e io provo grande solidarietà per loro e per le loro famiglie. Avendo io 44 anni e non avendo un cazzo. Ma cosa vuoi? Non è che dici voglio prendere sono. Scusami giù, ma che giù cazzo, non è che uno dice voglio prendere il Covid per raccontarlo alla radio, esattamente, dai, ma per dare un messaggio positivo, ma positivo di cosa positivo. Ma di chi? Positivo del fatto che del non fatto è non, che non se si lo deve essere terrorizzati poi ma cosa, non devi essere terrorizzato, non devi essere terrorizzato da questo virus. Se hai la mia età, il mio stato di salute, non il tuo stato mentale, no, di salute mentale di uno che dice mi voglio prendere il Covid. Più fuori. Ma io allora, mi voglio vedere il Covid per portarlo alla radio. Ma non chiaro, è un ospite, non è io il Brasile, non io è un ospite, cazzo, è una malattia. Mia ma cosa racconti? Ma non è fatto un ospite della radio. Quando sono stato in terapia intensiva anni fa, l'ho bisogna fatto. Metterlo sotto l'ho contratto. Ho fatto dai. Tutta una pagina sul gazzettino, ma ho fatto tutta una pagina sul gazzettino. In terapia intensiva, non dire stronzate. Vaffanculo. culo. Conte e il Papa si facciano per primi il vaccino, Petrella dice. Petrella, ho fatto una pagina su che cazzo c'entra. Sì, Conte, fa, ma cosa vuol dire? Fatto, giù. Conte e il Papa si facciano per primi il vaccino. Lo può fare lei, presidente del Consiglio. È inutile che dica lo diamo agli altri. No, no, prendetelo tu subito. Cioè, lei, tutti i deputati, tutti i senatori, il Papa, tutti i cardinali, tutti. Noi non siamo invidiosi, non siamo gelosi. Fatevelo stu cavolo di vaccine, perché dopo vi pentirete. Dopo vi pentirete. Il Covid non esiste, vuol dire distruzione di massa. Io Petrella lo sai, lo farei ospite fisso. Potessi averlo fisso, ospite fisso mancava, ogni giorno, sì. Ogni giorno. È un comico formidabile. Ma non lo senti che comicità, che incedere, che prosa, che lirica, che lirica. Non esiste il Covid, vuol dire distruzione di massa. Petrella, ti prego, devi venire qua, ospite fisso ogni giorno. Ti do questo palco, ospite fisso il dottor Petrella ogni giorno. Non sarebbe favoloso, dai. No, no. Ma come no? Non esiste il Covid. Non esiste. 19, l'ho detto tantissime volte. Okay. Covid-19 vuol dire distruzione di massa a livello internazionale, ma soprattutto è un virus influenzale che viene anno per anno. Avete avuto l'ordine mondiale di ucciderci, Roberto Petrella, da Teramo. Ragazzi, lo voglio qua. Ma mettetevi una mano alla coscienza. Mettiamoci una mano alla coscienza. Ma anche se avete avuto ordine mondiale di ucciderci, ma già se moriremo, già ci state a far morire lo stesso con questo lockdown che non serve a nulla. Con il vaccino ci sterilizzeranno per sterminarci. Petrella continua. Dopo un po' di ricerca si scopre, attenzione, che Sinergitin 1 è presente anche nello sperma. Quindi non saranno solo le donne a essere sterilizzate, ma anche gli uomini. Ecco, cioè, come che hanno programmato lo sterminio di noi italiani. E voi, italiani, qui non ci vuole una laurea per capire queste cose. Il buon senso. Il buon senso. Questo però è bello metterci Totò qui. La laurea, ti ricordi la laurea? Sì, questo mio nipote ha preso la laurea. Parole criminali. Parole criminali. Preferisco la morte. Preferisco la morte. Io mi dissocio. Ma mi dissocio. Cosa? No, che lo sto trattando come un comico. Parole dai. Da criminali. Preferisco la morte criminali. Istantanea al vaccino, signor Petrella. Mentre il mondo parla della grande speranza del Covid, qui in questo luogo, nel tempio radiofonico della Confindustria, caro Parenzo, diamo voce al dottor Petrella da Teramo. Mamma medico mia, già signora. Cacciato dall'ordine dei medici. Appunto. Bisogna sottolinearla questa cosa. Che non avrebbe cosa. Inventato in già nessuna cacciato. Trasmissione no, televisiva è stato ospite se non comica. Nella tua amata Piazza Pulita, dunque non sì, rompere il cazzo. Hanno, ma lo hanno perché incalzato. Noi che facciamo? Lo ma hanno è che incalzato che gli hanno dato un palco, gli hanno lo dato un pubblico. Gli hanno, ma lo che hanno sbertucciato. Messo sotto torchio, non ma hanno che... fatto il trattamento. No, no, no, guarda la querela. Lo hanno, dai, ma dai, per carità, ma per carità. Io preferirò la morte istantanea, ma non i danni di questa vaccinazione. E il fatto ancora più grave è che, oltre a recarci il tumore, pure il ci tumore. Creeranno tante di quelle malattie autoimmuni, sì. Tanto di quelle alterazioni congenite. Che i nostri figli, i figli dei figli, non saranno in grado di curarli. Io non capisco perché questo qua non è stato già insignito del valore della medaglia al valore della regione Abruzzo. Cioè, perché non stanno lì a tempestare ogni giorno le telecamere, i giornalisti lì davanti intorno alla sua casa? Il paese è ancora un paese serio. Perché questo è ancora un paese che ha delle risorse anche giornalistiche molto importanti ed è un paese serio. È ancora un paese serio. Chi c'è qua? Rossella dalla provincia di Roma. Signora mamma Rossella mia. Sentiamo la signora Rossella. Sì, sentiamo. Ah, vai, vai. Dopo quello che ho sentito oggi, guarda, agghiacciante. Dai, Rossella, dimmi. Rossella, dimmi. Eccoci, buonasera. No, aspetta che non Rossella. Sento però, Rossella, mettiti bene, dai, dimmi. Ok, adesso mi sentite? Sì, perfettamente. Il dimmi. Parere della signora Rossella. Vai, ok, dimmi. Buonasera. Tutti dimmi, pareri uguali. Allora, io volevo ancora ritornare un attimo sul caso genovese. Sì. Che vuoi dire su genovese? Dimmi. Che bestialità. Allora, anche alla luce di quello che è successo ieri e l'altro ieri qui, io sì. abito all'Ariano. Sì, sì. Quindi a pochi passi da Artena, teatro di quel crimine, sì. nei confronti certo. di quel ragazzo, Willy Monteiro Duarte. Ma che c'entra questo con genovese? Scusate. Certo. No, il discorso è no, cioè, certo che non c'entra niente. Appunto, dico, appunto. Così. No, allora? C'entra però la droga. La droga, minimo... la droga c'entra sempre, tutto è droga, come dice il diavolo. Il minimo comune denominatore è sempre, sempre la droga. Sempre la droga, tutto è droga. Dunque... Allora, siccome ultimamente stiamo sempre sentendo di più crimini il cui sfondo è sempre la droga, io volevo dire una cosa. Ma perché non si fa una legge che fa? Che proibisce la droga? Che proibisce la droga? Proibiamo la droga, come dice Gottardo. Proibiamo la droga, no, in generale, togliamo la droga. Proibiamo la droga. Io ti dico una cosa, Giuseppe, ti diamo del tu. Allora, sì, dimmi. Io ti dico una cosa. A me fa schifo, forse ho avuto la fortuna, per carità, perché non è che mi metto su un piedistallo. Vabbè, allora che vuoi dire? Ho avuto la fortuna che mi ha sempre fatto schifo, l'ho sempre trovata uno schifo, ma anch'io non ho mai fatto nulla, e allora per che carità, vuol dire? Ma sai che cosa penso? Comunque, io sono anche un insegnante, a livello scolastico, per esempio, si parla... Rosè, che vuoi dire? Ti prego, che vuoi dire? Non mi fare due coglioni così, non fare Parenzo, non già ne abbiamo, ma già ne abbiamo uno. Premessa. Ma che vuoi? Che vuoi dire? Che una vuoi dire? Voglio dire che ci vuole un monito più pesante. Che va stigmatizzato. Ma che vuol droga. Dire? Ma, dire che vuol, che ma sembri Gottardo. Cosa vuol dire? Sembri Gottardo che dice che non bisogna farsi le canne, che sennò si arriva la cocaina. Basterebbe fare il test obbligatorio a scuola. Basterebbe fare il test obbligatorio a scuola. Test obbligatorio a scuola, ma chi sei? Test obbligatorio a scuola, tu sei pazzo. Test obbligatorio a scuola, ma chi è? No, non voglio dire questo. Voglio dire. Ciao, amica mia, mi hai rotto i coglioni. Cristiano da Pistoia, vai. Cristiano, dimmi. Giuseppe, guarda che quadretto ti tiro su. Dimmi. Casa Farenzo, domenica pomeriggio, ore 14. Sì. Davanti alla televisione con dei bicchieri di pastito, lui e la moglie a vedere la Merlino, perché sono fedelissimi. Sì. Arriva la figlia maggiore con uno strappone in mano. No, però scusa, no, ti fermo qui perché è la figlia maggiore, ma di che stai parlando? Cioè, no, figlia... non tirerei in mezzo. Per la tua incolumità economica, per il tuo consiglio di non spingersi oltre. Ecco, bravo. Siccome abbiamo anche il suo numero di telefono, ti mando serenamente, ma tenermente, serenamente a fare in culo. Così non ti faccio per io lo faccio per serenità, per la sua Te, lo faccio per te. Luca da Bergamo, dai Luca. Ciao Crux. Dimmi. Per par condicio, buonasera Parenzo, buonasera. Vai ragazzi, forza, par condicio, su, dai. Vaffanculo a tutti. Dai, allora, forza, non c'è bisogno. Una cosa veloce sul Duce, dice sempre Duce. Sua eccellenza, il Duce, ogni volta questa cosa è Sua eccellenza. Il Duce ha abolito il lei durante il fascismo, quindi corretto sarebbe dire Vostra eccellenza. Ma cosa vuol a parte dire? Questa stupidata. E che ha abolito il fascismo, sua eccellenza è lei, lui voleva del voi e non del lei. Vabbè. Allora? A parte questo, quello che dicevate prima durante la diretta, quando grazie Lorenzo. Allora, quello che dicevate prima durante la diretta, quando ho chiamato mezz'oretta fa, era quello dei comuni. Roma 3 milioni di persone, Milano 1 milione e mezzo di persone, Napoli 1 milione. Io abito in un comune di 2.000 abitanti. No, ma ti dico, già ti anticipo quello che vuoi dire. È evidente che era una cazzata. Ma Parenzo l'altro giorno, ha crocifisso, un deputato, chiamasi Tondo ieri, perché voleva farsi multare per andare a trovare il figlio il giorno di Natale in un paese che dista 4 km dal suo. Oggi, siccome il governo Conte fa marcia indietro, perché siccome cambierà la norma, ma fino a quando c'è, è evidente che un deputato Parenzo, non è che oggi la norma non va bene perché lo dice Conte, invece guarda ieri andava bene, gli hai fatto un culo così a questo, certo, dicendo la se tutti facessero di così norma, io l'avevo cagare. Spiegata pure, ma non mi interessa, il punto fondamentale è che se un governo oggi crede in una cosa la fa, se pensa che possa stoppare i contagi se ne fotte di quattro che protestano. Non è che la norma in sé stoppa i contagi, tutto l'insieme limita quello rallenta, che è, li limita. Bravo. Ma ho capito. Il senso è solo quello. Ma se quello, tu allora lo consenti, significa tutto, che non serviva un cazzo. Dire, ma scusa, allora anche le file al supermercato, allora anche. Scusami, tutto ma perché l'hanno fatta allora? Perché l'hanno fatta? Perché l'hanno decisa? L'hanno fatta perché temevano e temono. Ma temevano cosa tuttora, che ancora non è successa. Perché si tirano indietro adesso? E temono. Perché si tira? Perché è una buffonata. Perché è una buffonata tale per cui non è che si può imporre. Poi Di Maio norme. Che dice permettiamo ai cittadini di spostarsi, ma vaffanculo, ma permetti cosa? Ma che permetti tu ai cittadini di spostarsi? Sono io che decido che se spostarmi o no, Di Maio. Ma io sono limitato nei miei spostamenti da chi? Sei cosa? Limitato perché c'è una pandemia. Vai a cagare, quindi non è vai. Che Di Maio vuole limitare. Eugenio da Catania, vai Eugenio, dimmi. Dimmi Eugenio, dimmi. Sì, buonasera. Volevo dire una cosa al signor Parenzo, che penso sia l'unica persona con cui si può parlare in questa trasmissione delinquenziale. Devi parlare con la sua trasmissione delinquenziale, è vero? Fermo là, coglione. Tu, allora, tu sei un delinquente, no, sei un delinquente. Aspetta, fermo, Eugenio, fermo che chiamo. Fallo parlare. Aspetta, c'è l'interruzione, fermo. La zanzara. Cruciani, mi devi spiegare come fai a paragonare il comune di Roma di 4 milioni di abitanti con la provincia di Bolzano che fa 500.000 abitanti, tutta la provincia, ma uno non può uscire dal comune della provincia di Bolzano, però può andare in giro per tutta Roma, ma dai. Se uno di sinistra viola le regole è disobbedienza civile, è un eroe. Se uno di destra decide di violare le regole e lo dice anche, dice per invece è un coglione. Cioè che cazzo dici? Porca puttana, oh. Io che sono di sinistra per colpa tua sto diventando di estrema destra. Quindi ricapitolando, io il 19 dicembre posso partire dal Lazio, che è zona gialla, andarmene in Sardegna, passare il Natale lì e ritornare il 27 e nessuno può dirmi un cazzo. Mentre invece se il giorno di Natale da Roma voglio andare a Bracciano, non lo posso fare perché è un altro comune. Mandate tutti a fanculo. La realtà era questa ieri, adesso Parenzo si accoda alla realtà. No, si accoda alla realtà. Da ieri attaccavi a spada tratta, ieri attaccavi a spada tratta uno cosa, che ti faceva notare la follia di questa roba qui. Ma le norme, e gli dicevi tu, irresponsabile. Ogni norma, voi le avete analizzate, avete detto che è folle. Il primo ascoltatore non ha capito un cazzo, non ha capito una sega, perché io sono contrario, sono sempre stato contrario a questa, penso che sia una follia pure non poter circolare tra le regioni, una follia totale, non solo una follia, ma una cosa che non serve a una sega, a nulla. È importante mantenere le norme sugli assembramenti, sulla socialità, quello lo sappiamo tutti, ma la circolazione, no, la circolazione non c'entra quelle. Un cazzo. C'è stata una fase in cui addirittura eravate arrivati a dire ma come? Ma il virus alle 22 non circola, alle 18 ma quello, non infatti, circola. Il coprifuoco ogni è una puttanata, norma, il coprifuoco è una puttanata. È Eugenio, ogni norma dai. Può essere criticata, Eugenio, ovviamente dimmi. Sembrare irrazionale. Eugenio, dimmi. Sì. Dunque, signor Parenzo, una cosa semplicissima. Ieri Parenzo, il professor Galli. Questo vuole parlare con Parenzo. Vuole parlare con Parenzo. No, perché è una cosa semplice che lui lo sapeva, in fondo l'ha condiviso pure ieri sera. Il professor Galli ha detto una cosa semplicissima. Ha detto purtroppo di fronte alle bestialità che si sentono, l'unica possibilità che ha una persona è quella di giustamente alzarsi e andarsene, perché altrimenti. E quali sarebbero le bestialità? Spiegami. Quali sarebbero? Gottardo, tu che hai definito delinquenziale questa trasmissione. Di dire, certo. Delinquenziale. Il signor Gottardo si permette di dire, a fronte dei morti, pazzesco, a fronte di questa tragedia nazionale, pazzesco, si permette di dire io mi voglio prendere il conto. Sì, incredibile. Ma io potendomelo ora me lo prenderei. Io non ti parlo nemmeno Gottardo perché sei un povero. Ma vabbè, incredibile. Posso dire questa cosa? Incredibile. Un povero disgraziato. Incredibile, veramente incredibile. Tragico. Ma guarda, statisticamente non mi succede un cazzo. Ma cosa vuoi? Praticamente mi dispiace che quest'estate non ti abbiano buttato definitivamente fuori alla trasmissione. Lasciamo perdere questa cosa qua. Cosa c'entra? Critica quello che ha detto. Non parlare della zanzara che non sei all'altezza. Dai, su. Non è un problema della zanzara, è un problema che in una radio nazionale c'è una persona che possa dire. Ma certo, meno male. Meno male che lo può dire. Meno male che lo può dire. Questo è la responsabilità di quello che dice. Infatti, se ne assume, non è che sta scappando. Non sei più abituato alla libertà. Non sei più abituato alla libertà, amico mio. Però è una follia sostenerla. Quello è... Ma non è schiavo della tua paura. Ma che c'entra la paura? Ma dovrebbe vergognare. Dire io perché mi devo vergognare di sentirmi libero? Perché mi sento, lei non mi devo io vergognare voglio di sentirmi libero. COVID. Lei non lo può dire. È una vergogna. Perché non posso dirlo? Chi è che lo decide? Chi è che decide che io non posso disporre del mio corpo? Ma perché è una follia di fronte a tutti i morti che ci sono stati? È un insulto, ma cazzo, un'aberrazione. Ma quelli avevano 82 anni. Ma non è vero. Ma non è vero. Si non parlare in 5-6 come diceva Biscardi. Siete troppi in 5-6. Solo in 3-4 si può parlare. Dai, forza, dimmi Eugenio. Allora? Sto dicendo che lui non se lo vuole prendere realmente, è chiaro. È una provocazione, guarda, che come tutte le sue provocazioni che come ma tutte le provocazioni no no se lo vuole prendere però, però non ha il coraggio di prendersela fino in fondo, perché altrimenti circolerebbe senza nulla in giro, andrebbe a fare qualche piccolo assembramento, qualche cena in 10-15 persone dentro le case. Non lo farei. E allora questo che cazzo vuoi? Se te lo vuoi prendere, allora, prenditelo. Allora, se... io voglio prenderlo io, non voglio darlo agli altri, vorrei ma prenderlo ma, io. Ma che follia è? Ma per portare, ma che roba, che è un delirio, per dimostrare, ti rendi... ma per non dimostrare, c'è da dimostrare, non sei uno scienziato. Ma cazzo, due, ma due italiani su tre se prendono il Covid non gli succede. Lui un vuole dimostrare nulla. Ma chi te l'ha detto? Che ne sai? Non è vero. Ma lo dicono le statistiche, il 90% delle persone che sono infettate sono asintomatiche o pauci sintomatiche. Non è un ospite, lo capisci o no che non è un ospite di X-Factor? Leggiti i rapporti, leggiti i rapporti del Consiglio Superiore della Sanità. Superiore della Sanità. Io quando lavoravo al mattino di Padova, ho scritto no, della terapia intensiva. Ho scritto della terapia intensiva, sì. Sì, ho scritto della terapia intensiva. Certo. Mi scrivono, allora, il povero Contardone mi è scappata la frizione. Mi scrive un grande dottore televisivo. Lei ha quattro figli, lei non può rinunciare a lavorare per Confindustria, però è una vergogna. Ma che c'entra, scusa, ma cosa c'entra? Interna. Ma cosa c'entra questo? Quello ha detto, fare chiudere questa Io a titolo personale rivendico la mia libertà. Ovvero buttate fuori Gottardo, avete un podcast che non funziona e pagate lo stipendio a Gottardo. Fuori Gottardo, dentro un podcast migliore. Vabbè, ma lavoriamo sulle cose serie. Fai un'ennesima raccolta firme. Questa è una puttanata, non c'entra niente. Questa è una puttanata, non c'entra niente. Perfettamente. Ma non dire cazzate. Un povero idiota come a Gottardo. Pagare un povero. Ciao. Allora, nei giorni scorsi la signora Littizzetto ha fatto questa battuta. Vedete, lui cambia argomento. Sì, aspetta, certo che cambia argomento. Questa è la zanzara, argomento. Mica bisogna stare a fare. Cambia argomento, così è una cosa così e non cambia argomento. Aspetta, ha fatto questa battuta sulla signora Wanda Nara. Sulla signora Wanda Nara, sentiamo. Sai la Nara di nome Wanda? Sì. È un'appassionata di cavalli. Bene, e questa settimana si è fatta una foto in sella al suo destriero. Ma che male c'è? Destriero, vestita proprio con la tenuta da fantino. Per forza, vediamo. Amazzone, che fantino. Da mazzo. Eccola. Quando si dice cavalcare a pelo, vedi? No, c'è la sella e non è. Non si spiega. No. Tanta roba. Io mi chiedo come è stata issata su, cioè l'hanno messa su a peso e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Yolanda Prezzi. Ma è ferma, perché... il cavallo è fermo. Ho capito, ma il cavallo non starà immobile. Ma sì che sta immobile, ma sì. Allora spiegami dove è finito il pomello della sella allora. Smettila! Secondo me si arpiona in questo modo. Voi piantatela. Vabbè, insomma, immagina che la signora Wanda Nara si sia messa il pomello della sella in mezzo alla figa. Ragazzi, questo ma è l'immagine americana. Sì. Se una sella all'americana, sì, se una sella europea. Non ecco ha l'altro che va nel dettaglio. No, però posso dirvi una cosa, ragazzi, una cosa. Allora, oggi, perché ne riparlo oggi? Perché la signora Wanda Nara ha annunciato che vuole fare addirittura una causa giudiziaria nei confronti della Littizzetto. È come Parenzo che va sempre per tribunali. Sì. No, non lo so se va sempre per tribunali. In questo caso va per tribunali. Però voglio dire a Banda che conosco. Io però, a amica differenza della signora Wanda Nara, che siccome è fighissima, è molto simpatica, io a differenza della signora Nara, per ora, no, magari in futuro, se non ho mai fatto foto nudo cosa a cavallo quella? Di destieri. No, voglio dire, non ho detto a differenza di... Per fortuna. Comunque una foto... Per nostra fortuna. Comunque è una foto molto bella e artistica quella di Wanda Nara. No, ma infatti non c'è foto. Quella foto conferma una mia antica teoria, Sentiamo la castroneria 2, sentiamo. No, insomma, cos'è la castroneria? Notorio, dimmi. Quelle che vanno a cavallo è notorio che insomma siano molto più simpatiche. Ma non so se va a cavallo oppure una foto artistica, che vuol dire? Cioè, ma allora, ragazzi, possiamo dire una cosa molto semplice. Cioè, la signora Wanda Nara, quando fa foto di questo tipo, si mette nuda sulla sella di un cavallo, si espone, come è naturale, anche a battute. Cioè, fa parte nuda sulla sella di un cavallo, si espone. espone a battute. Quella signora Littizzetto è una battuta, appunto. Che cosa c'entrano i tribunali, sì, cosa c'entrano i giudici, i tribunali, eccetera. Non è che ha detto cose clamorose, ha detto. C'è il diritto di critica. Ma insomma, il diritto anche di satira, eccetera. Il diritto di satira. Certo, diciamo cioè, che diciamo che la satira de sinistra, se fosse stato. No, se fosse stata una battutaccia su una donna. Di un uomo? No, ma certo, ma se cosa, un uomo l'avesse fatta, ma che sarebbe c'entra? Perché beh, l'uomo non la può fare, no, non ho capito. No, sai ah, perché? Cioè, non si può scherzare sulla gnocca. Un uomo no, non si può sai, più scherzare, si può sulla scherzare gnocca. Ma che roba è? Guardate, Nietzsche, grande filosofo, diceva: è importante chi dice le cose. Il fatto che a fare una battuta di questo tipo, quindi non c'era malizia sessista, dai, ma non dire cazzate, una donna, su, ma questa no, è una puttanata, fondamentale. Dai. No, invece Nietzsche, è importante chi dice le cose. Ma è una puttanata, dai, no, una puttanata rifletteteci, pazzesca. Rifletteteci e domani mi telefonate. Ma è una puttanata incredibile, non c'entra domani, nulla, non riflettete. C'entra nulla. Ma va, è importante ma chi dice le cose. È una stronzata tremenda. Vuoi criticare solo Nietzsche? Perché, ma che critichi c'entra? Nietzsche? Solo perché la Littizzetto fa una battuta su Bananara, ma per me la può fare, per me la può fare benissimo. Anch'io l'ho detto, certo, ma non perché è Littizzetto, perché è importante chi dice le cose. Ragazzi, la più grande perculata di queste ore è Algero Worldstar 1727, come cazzo si chiama, che prende per il culo, prende per il culo Lasciarelli e chi l'ha visto, perché fa credere di essere sparito, fa credere di essere sparito. Senti, senti che succede a chi l'ha visto, senti. Due giorni fa abbiamo ricevuto questo messaggio. Io sono la fidanzata di Algero Correttini. Da ieri sera non abbiamo notizie di lui. Ecco qua il messaggio. Mi potete aiutare? Considerate che i messaggi ci arrivano via WhatsApp oppure all'8262@rai.it. E quindi sembra una richiesta di aiuto come tante altre. Comunque Andrea Perini con Marco Monti sono andati a sentire che cosa appunto ci poteva dire su questa scomparsa, che però, vi ripetiamo, potrebbe anche non essere una scomparsa, e vediamo che cosa ci ha detto. Algero è un influencer, come sanno tutti. Un influencer. E, scusate, devo cercare le parole. E niente, praticamente domenica è successo che lui ha preso e se n'è andato. E lui ha detto torno subito. È uscito e non è tornato. Dopo qualche ora io pensavo che fosse stato arrestato, dico la verità, conoscendolo, che venivano anche carabinieri in casa, eccetera, eccetera. Quindi hai pensato fosse stato arrestato, certo. In realtà non è così. No, non è così, perché io ho chiamato, insomma, poi abbiamo anche amicizie, quindi mi sono un po' informata e non è nessun carcere, cioè non era in nessuna questura, quindi okay. Questo è caserma, insomma. La denuncia di scomparsa l'hai fatta? No, non l'ho fatta, perché ora ti spiego subito. Allora, mi sono accorta dopo qualche ora che non c'era detto che era stato arrestato, che a casa aveva il portafoglio. Allora io però, guardando sulle carte, mancano due carte e diciamo il documento di identità, sai, quella elettronica. Per ricordare a qualcuno che è Algero, la stessa Sciarelli dice un personaggio conosciuto sul web, Fratelli, sentite. La cosa che però un po', insomma, ci ha lasciato così stupiti è il nome, no, dello scomparso, questo Algero. È un nome, insomma, in qualche modo forse conosciuto tantissimo, sì. Soprattutto in rete, dai social, eccetera. E allora ve lo mostriamo in uno dei suoi tanti video, in cui praticamente io posso dire si spiega come non guidare la macchina. Non ci sono problemi. Vi insegna a guidare. Quando il semaforo è rosso si fa così, tac, gli imbocchi qua, gli rigiri qua, fratelli, così. Vada, fratelli, ho sfornato tutto, fratelli. Ho preso il muro, non ci stanno problemi, fratelli, è questo, è così, è 17:27, è così. Allora ragazzi, Oggi con i grandi mezzi di questa trasmissione abbiamo fatto chiarezza. È tutta una puttanata inventata. È tutta una puttanata per prendere per il culo Lasciarelli e il servizio pubblico e chi l'ha visto. Complimenti proprio. Chiamiamo. Complimenti. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Fratelli. No, ciao padre, chi è? Ah, sono Cruciani, buonasera. Dimmi, dica. Come andiamo? Io bene, bene. Beh, amico mio, senti, ma che è successo? Chi l'ha visto pare che sia scomparso fratellino, che è successo? E che è successo? È scomparso fratellino. Ma come è scomparso? No, fratellino, suo figlio in questo caso, è fratellino. Ma come ma com'è possibile che è scomparso? Cioè uno scompare così all'improvviso? È scompare così, uno ma con la moglie, ma con la moglie incinta poi, scusi, direttore, con la moglie incinta? No, la fidanzata è incinta. Sì, la fidanzata, insomma, la moglie. Ma è vero che è incinta allora? Ah, non so, non mi dica a me, so queste cose. Come ne come sai? Padre, no, ma che famiglia è? Il padre, ma mica me ne contano tutto a me. No, voglio capire una cosa, ma allora è scomparso sul serio o no? È scomparso sì sul serio, Ma che vuol dire scomparso? Sarà tutta una trovata sua di fratellino come al solito? Non lo so, il fratellino si inventa tutto, però che ne so io. Cioè, si inventa la macchina. Il fratellino c'ha un gran cervello, si inventa tutto. Sì, ho capito, ma uno, ma uno che interpella un servizio pubblico, chi l'ha visto? La signora Sciarelli, capisci che o è una genialata, una presa per il culo eccezionale, oppure è veramente scomparso. Tu che sei il padre dovresti un po' conoscerlo. Io penso che è scomparso perché io manco ho sentito più. No, che è successo? No, ma dimmi, scusi, lei è il padre, o è preoccupato oppure è una presa per il culo, decidiamoci. No, no, io sono preoccupato perché si sente una presa la voce. Ma no, non mi pare, non mi sembri preoccupato dalla voce, amico mio. Scusami se no, te lo dico. No, perché bisogna non so, bisogna piangere per essere preoccupato. No, capisco che sei abituato, capisco che sei abituato, sei abituato. Di cosa si occupa lei, scusi? Io. Scusi, notaio, scusi, di cosa si occupa lei? Io? Sì. Come di cosa mi occupo? Che lavoro fa? Che lavoro fa? Vende armi lei? Ma sì, vendo le armi. Ma quale armi? Dai, non diciamo cazzate. Ma che armi vende? Dai, ma io faccio il carrozziere, scusa. Carrozziere, fa il carrozziere. Ah, il carrozziere, dai, fa il carrozziere. Capisco da dove ha preso il fratelligia, Algero, World Star, eccetera. Sì. Ha preso questa sua creatività, diciamo così. Ma che creatività? L'ha presa tutta perché da... Perché lui c'ha un gran cervello, glielo sto dicendo. Sì, ho capito, però adesso stiamo parlando di una scomparsa che è andata a finire a chi l'ha visto. Ma è stata una polemica, non ho capito. Ma non è noi la polemica, scusi, padre del fratellì, lei ha innanzitutto ma, ci dovrebbe raccontare. Ma non ho capito, avete con me, non ho capito io. Ma ho capito, ma lei è il padre, è andata, la fidanzata ha chiamato a chi l'ha visto dicendo che è scomparso, lei sta ridendo e scherzando. E se ne fotte. Ma no, ma dai, ma no, ma c'è da apparire voi a me, non ho capito. Non ho capito io. È incredibile, vabbè. Guarda, è incredibile. Scusi. Ma che te ho fatto dannare televisione pure io? Ma ho capito, ma allora è scomparso o no? Lo vogliamo dire alla signora Sciarelli? Allora, io dico io. Allora, è andato via mio figlio. Ma dove è andato? Se n'è andato, no, scusi. Ma avrà litigato? Avrà litigato con la fidanzata, non c'è bisogno di No. Guardi che la fidanzata sta qua, non è vero, non ha litigato. Ma è incinta o no? Glielo può chiedere la signora se è incinta? Sì, è incinta, sì, è incinta. Ma no, no, faglielo dire a lei. Ma lo sa o no? Io parlo schifo. Ha detto, a noi facciamo schifo. Lei che futuro immagina per questo nipotino? Immagina che magari diventerà un magistrato, magari un giudice, magari ma un notaio. Ma io penso che prenderà il posto del presidente della Repubblica. Ah, lei pensa, suo nipote, il suo adorato nipotino. Il bello che c'è lui, io penso che gli ha in carta tutti quanti detto a Roma. Dico io questo. Scusi, lei anche lei ha un passato da delinquente come suo figlio? Io sono stato a bottega 6 anni. Cioè, è stato bottega sei... che vuol dire, scusi, in carcere. 6 anni. La bottega mi ha lavorato però. Sì, ho capito, ma quanti anni ha passato in galera lei, signore? Ma io ancora, ma sto scherzando. Ah, niente, lei è incensurato. No. Lei è incensurato. No. Io sì, sono incensurato. Lei è incensurato. Non e ha mai... il suo figlio no, invece. Almeno quello. Almeno per momento. Almeno al momento sì. Ma che valori ha trasmesso a fratelli, a suo figlio? Quali sono i valori sui quali lei ha basato il suo insegnamenti di padre? Ma guardi, io insegnamenti di padre gli ho dato tanti belli, poi il cervello l'ha adoperato lui. Sì, l'ha adoperato lui. E poi ognuno è andato per la sua strada. Ognuno è andato per la sua strada. Lei condivide tutte le cose che fa, per esempio le cose con la macchina o altre cose? Ma sì, io le condivido perché ormai è personaggio. Io mio figlio è diventato una star. È diventato uno. È diventato una star. Posso dire, sarà orgoglioso, potrà essere orgoglioso il padre oppure no? Non esageriamo. Io sì, sono orgoglioso di mio figlio. È orgoglioso. È orgoglioso. È un figlio, lo amo. Ha un profilo meglio. E non me ne frega un cazzo da quello che pensa la gente. No, ma che lo ami va bene, ma un profilo mezzo criminale, però fa delle cose. Ma non è il mio criminale perché mi non ha ammazzato nessuno. Passami un attimo la fidanzata un secondo. Ma cosa sì, un attimo, passami un secondo. Ecco, potete parlare con me. Lei è la È la fidanzata, certo, lei. Ma, certo. Scusi, ma allora, non è preoccupata, non ha la voce preoccupata, neppure lei. C'è uno che è scomparso. All'inizio, all'inizio sì, poi ho visto che sono spariti qui gli anabolizzanti, non mi sono preoccupata perché quelli sono la sua vita. E allora perché? Lui senza di quelli non vive. Perché io so che è andato via perché era stressato, ma ritorna. Ma sei incinta o no? Allora? Sei incinta o no? Come? Sei incinta o no allora? Ho tutta l'invenzione pure questa. Ho capito, ma vuol dire, se uno dice pubblicamente che la mia fidanzata è incinta, ma questo è un mio amico, io ti devo dire cazzi miei. No, capito. Ma pure questo è vero. Ma l'ha detto lui, ma l'ha detto lui, mica l'ho detto io, scusami. Ha detto lui, mi chiederà lui quando ritorna, chiedi. È tutta una trovata, è tutta una trovata, è tutta una trovata, ah, sì, fantastica, tutta una trovata. Anche la scomparsa, oh, anche ecco, la scomparsa è tutta una trovata, anche perché voi mi state chiamando, è tutta una ma trovata. È un genio, ma è un, ma scusa, ma se ha coinvolto chi l'ha visto nella sua scomparsa, è un genio, cioè, ma tanto di cappello, è un genio assoluto, è tutta una trovata, è tutto un trucco, è lui, però noi non sappiamo niente, noi siamo tranquilli perché già che ha portato via gli anabolizzanti e due carte di credito, penso che non è andato a star male, no? Secondo me ti ha detto pure chiama chi l'ha visto, posso dire, ti ha detto pure, ma ti ha detto anche manda un messaggio a chi l'ha visto. No, sì, sì, in realtà sì, me l'ha suggerito la mia famiglia, ti dico la verità. Lo vedi, cioè, tutto, ma non pensavo, che cioè venissero fino qua a fare il servizio, io pensavo che magari non ci avranno avuto una foto segnaletica e loro sono voluti venire direttamente, saranno stati un po' in come dire, no? Cioè, pensa quando scopriranno che è tutta una cazzata. Pensa te, pensa quando scopriranno che è tutta una cazzata. No, pensa te, sì, no, io mica l'ho fatto io, tu l'hai fatto, quindi a me non me ne frega un cazzo. Bella bella famigliola. D'altra parte stai non con fratelli, non è che mi fanno lo stipendio, a me lo stipendio me lo fa il Gero. Ho capito, ma quello è il servizio. Che vuol dire lo stipendio te lo fa il Gero? Scusa, mica che te paga lo stipendio al Gero? Certo. E che per fa cosa lo stipendio? Noi abbiamo un sito, quindi lavoriamo. Vabbè, comunque posso dirti una cosa, se Algero si è inventato tutta questa fuitina, cioè non tutto... lo so, quando arriva, quando ritorna, sì, quando ritorna, quando ritorna Algero, caro Parezzo, quando ritorna al signor Algero, sicuro. Però è andata a farti una girata, che ti devo dire. Comunque, secondo farsi me la serata, allora, dove c'è il Covid, una peraltro girata, ha detto una girata. Comunque, ma capito, prima una girata dove che c'è il Covid. Ma che gli frega quello del Covid? Ma cioè, dove dorme la sera, a ad esempio, Roma, scusa? A Roma, perché tanti a me mi dicono che lo vedono dappertutto. Ma non è scompare, perché siete andati a chi l'ha visto? Ma io questo è che trovo incredibile. Usare il servizio pubblico che paghiamo tutti noi per le vostre pagliacciate. Questo mi manda i matti a me. Ma no, ma questo chi se ne frega? Beh, come? Vabbè, ciao, ciao amica mia, ciao, ciao. Ciao, ripassami un attimo il padre, un attimo. Tieni, a me mi hanno stufato. Sei pronto? Dimmi. Mi hanno stufato, come si permette? Come ti chiami? Io, come mi chiami? Pino. Tu come ti chiami? Io, Pino mi chiamo. Ah, Pino, come me, Giuseppe. Comunque, il Covid... Diminutivo. Ma cosa fate per Natale? Fate un pranzo, una cena, che fate? Ma guarda, io per Natale sto con la mia compagna, con mia figlia. Ah, bene. Sì, vabbè. Perciò più di tre persone non siamo. Che te frega? Bene, molto bene. A Gero non lo so quello che farà, o rivedranno... Ma il Covid esiste, per te esiste il Covid? Per me non esiste. Ma per me non esiste, cioè il Covid esiste, ragazzi, perché io ho perso da amici miei pure giovani, capito? Non c'avevano, esatto, nessuna patologia, tutti dicevano patologia, quale patologia? Come Parenzo la pensa tu? Beh, no, adesso non c'è niente, no, questo non si può dire in alcun modo, però perché tutti dicono tutti che le persone quando muoiono all'ospedale erano pieni di patologie. No, invece ma quali patologie? Quali patologie? Lo vedi? Lo pensa come Parenzo questo caso? Adesso dovevo un attimo rivedere le mie posizioni, però vabbè, un po' mi imbarazza, devo dire, però vabbè. Auguri, tanti auguri, allora dico che sarete. Tanti auguri, tanti, sì, tantissimi auguri, tanti tantissimi auguri. Pure a voi ragazzi, buon Natale. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci, arrivederci. Ciao, ciao, ciao, ciao. La Zanzara. No, no, no, non è il Bill Gates dietro tutto questo, no, no, c'è Amazon, pensateci bene. La Zanzara. Gottardo, mamma mia, quanto cazzo puoi essere stupido. Cioè sei proprio stupido e qualunquista, ne capisci di cannabis e droghe quanto Parenzo di porno. Mamma mia, stai zitto e ti vanti pure che mi hai scritto sono di Padova, ho sentito, ho scritto di signore che geni di figli sono morti a 20 anni. Ma stai zitto, ma come fai a dire? Cioè, è logico che hanno iniziato tutti con la cannabis, è normale. È come dire che un alcolizzato ha iniziato con la birra, è normale. Ma se io mi bevo una birra al giorno con gli amici miei non divento alcolizzato. Sei proprio stupido, gollardo, mamma mia, Giovanardo da Padova, mamma mia Gollardo, stai zitto per favore. Allora ragazzi, andiamo con Luigi da Isernia. Luigi da Isernia. Comunque ragazzi, fratelli è un genio, cioè si è preso per il culo pure. Ma beh, ragazzi, genio, cioè, far finta genio, di essere schiavo. Io fossi del servizio pubblico lo a questo punto lo chiamerei in giudizio, insomma, no? Adesso tribunale, tribunale. Ma cosa cazzo vuol dire? Scusa, non ho capito. Cioè, no. Servizio ma perché pubblico, tribunale? Ha mandato lì le telecamere, danno cioè, ma radiale. Fosse finto, fosse tutto finto, saranno boccaloni quelli di chi l'ha visto, scusami. Non il danno mica colpa erariale. Di lui li ha trollati, li ha trollati. Dai, grande trollata, va bene, Luigi da Isernia, vai. Luigi, dimmi. David ha ragione, è importante chi dice le cose. Nietzsche soprattutto, lo diceva, non io. Nietzsche. Sì, no, ma la citazione è giusta. Che vuol dire? Soprattutto grazie. È importante uno come Francesco da Firenze, quando fa a pezzi il nipote della balena bianca. La deriva. Cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questa stronzata? Dimmi. Giuseppe, fai questo cambio. Cosa vuoi dire con questa stronzata? Francesco da Firenze al posto di Gottardo. Ma che c'entra? Mi sembra sono un'ottima idea. Sono anche mestieri diversi. Cioè, sono anche mestieri diversi. Mi sembra un'ottima idea. No, no, e tu? Nemmeno i mestieri. Ha perso proprio la bustola. Su da quando si è materializzato Francesco. Ma su che cosa? Su questa questione dici del Covid dici? Su tutto, no, su tutto. Sei ancora in tempo per dire ho sbagliato, sei ancora in tempo. Ma ho sbagliato cosa? Non ho sbagliato assolutamente nulla. Ma no, poi no, il vento sta cambiando. Ascoltatore ma che come vuol tanti, dire? Ma che il vuol vento dire? Sta cambiando. Chi è che sta arrivando? Un cretino come te? A quest'ora su Radio 24 per esempio. E allora? Calma, non è cambiato, calma. Non è cambiato il tempo. Luigi. Non è cambiato il vento assolutamente. Cosa stai dicendo? Che Luigi fa innervosire un perculatore seriale come lui è bello. No, nessuno è innervosito qua, nessuno si è innervosito. Ma per favore, anzi, mi stai anche annoiando, non mi stai innervosendo. Come annoiando? Sì, sei noioso, Luigi, sei noioso. Rotto i coglioni. Cioè, sei noioso, vedi? Sei noioso, però. Luigi, percepisce. Però è vero che sei noioso, eh? Cioè, è vero che non fai ma scattare. Il timbro della voce. Sì, ma non fai scattare, cioè non fai. Non fa scattare, non... lo so, tu vorresti il circo. No, non fai scattare, dai, non ci ascolto. Non fai scattare, è esploso, sta morendo. Non fai ascolto, dai, ciao, ciao. Ah, ciao. Ciao, ciao. Oh, Bissani dice che non vuole fare il vaccino, eh? Bissani sostiene che non vuole fare nostra, il vaccino. È scuola nostra, Bissani sostiene che non vuole fare il vaccino. Si occupi di fare di cucinare dei buoni risotti mantecati. Ma perché non può dire che adesso non può sostenere che non vuole farsi il vaccino. Però dico, Bissani, si occupi di fare degli ottimi risotti mantecati. Sta dicendo? Spieghi. Bissani dice le stesse cose che dice Andrea Crisanti, sai, volevo darti questa informazione. Ma no, sì, bravo. No, ma non questo. Diciamo bestialità. Crisanti ha detto che deve essere verificato, ovviamente ha spiegato il misunderstanding nel quale, sì, nel quale è caduto. Il misunderstanding cioè, l'ha spiegato. Misunderstanding. Si chiama misunderstanding in inglese. Il misunderstanding è una parola intraducibile in italiano. Rende molto in inglese il misunderstanding. Quanto copre il vaccino? È veramente studiato per coprire? O dobbiamo fare il richiamo? Che richiamo? Già sono due. Cioè, capisci? Io non me lo farei sicuramente. Perché? Perché? Perché no? Perché non me lo vorrei fare? Perché no? Perché no? Senti, senti ancora, senti. Io lo farei. Mia madre faceva sempre l'anti-influenzale. Che c'entra? Sì, vabbè, lei lo faccia, io no. Quindi Vistani è Novax. De Masi, si farà il vaccino? Non è Novax, ma scherziamo! vorrei farlo per primo, certo, ci mancherebbe la altro differenza tra chi ma ha siamo proprio a livello no di altro che infantilismo, qui è demenza praticamente, demenza, appunto, esatto. Vedi la differenza, stai dando tra chi del ha studiato a Pisani, e chi però no, stai dando del no demente è la differenza a Pisani tra chi ha studiato e ma chi non no dire cazzate adesso, tra chi cosa c'entra, certo, dai, da chi ha strumenti per capire e chi è bravo ovviamente è un cioè, gigante, chi non ha del studiato fare è un coglione, chi non ha studiato è un coglione, tu che non ti sei laureato a giurisprudenza a Padova sei un coglione, scusami. Gli strumenti culturali che ha il signor Vissani, evidentemente io mi fiderei di chi è esperto, non mi farei un giudizio io se non ho certo studiato medicina. Aboliamo le libertà, allora sto aboliamo dicendo, libertà, ma quale libertà? E il mio medico curante decide libertà tutto quello che devo fare. No? Allora guarda, mi scrivono improvvisamente, voglio bene a Gottardo perché è completamente impazzito. Oggi Gottardo fermi sta tutti crollando. Abbiamo qui il fondatore, sembra incredibile, l'annuncio è stato dato qualche giorno fa, di chi? Del partito dei gay, del partito come dei gay. Esiste un partito ma ufficialmente figurati, da qualche giorno, il partito dei gay. Ma cos'è? Beh, ragazzi, che vi devo dire? Partito dei gay? Non lo so, ma perché Fabrizio perché Marrazzo, buonasera. Buonasera, ma io dico una cosa, Marrazzo, lei è stato all'arcipresidente dell'Arci Gay. Non è parente no di Marrazzo. Ecco, oggi le dice una al minuto. Oggi le dice una al minuto oggi. Cioè, è completamente impazzito. Fermati per tempo. Sei impazzito oggi. Completamente. Già hai detto una bestialità sul ottimo Covid. Giornalista, fermati. Allora, Marrazzo ha creato il partito dei gay, che è anche ambientalista, quello che ti pare. Però fondamentalmente è il partito dei gay. Ora, c'era bisogno, caro Marrazzo, di fare il partito dei gay? Che cazzo vuol dire poi il partito dei gay? Non è sì che puoi sperare. Tu hai fatto però un calcolo, Marrazzo, no? Un calcolo. Sì, hai allora, fatto. Il partito dei gay è un partito che va sui diritti delle persone lesbiche, bisessuali e trans, ma vabbè non solo, anche ma tu hai fatto un calcolo però, il calcolo è quello del numero della percentuale di gay in Italia, che quale sarebbe allora, le persone che si sono dichiarate lesbiche, gay, bisessuali e trans sono il 12,8% della popolazione dunque italiana. Tu teoricamente potresti dire io posso aspirare, che ne so, a prendere il 10% col partito dei gay. Diciamo, i sondaggi ci dicono che se il 100% degli italiani conosce il nostro progetto, il 6% è ben intenzionato a votarci e l'altra è un'altra parte. Il partito dei gay. Allora, secondo il partito dei gay, caro Marrazzo, si può pronunciare il capo del partito? Sai che mi voglio iscrivere io, Parenzo, al partito dei gay? Sì, voglio avere la non è un buon segno per lei, Marrazzo. Io le voglio bene, lei è una persona molto gay. Marrazzo è una persona intelligente e per bene, quindi evviva. Partito punto gay. Non è un bel segnale il fatto che uno dei suoi primi iscritti. Non è un bel segnale, io dico, dal punto di vista proprio del marketing per voi. Il fatto che uno dei primi aderenti sia. Secondo me è un bad vegan, come diciamo noi americani. Scusi, Marrazzo, io voglio capire una cosa. Allora, la parola froscio, secondo te, si può pronunciare o no? Spiegami subito. Secondo la parola froscio è discriminatoria. Ma no, ma non è discriminatoria, certo, ma ve la dite certo voi. Ve la dite tra di voi, Marrazzo. Ve la dite mamma tra di voi mia dalla mattina alla sera. Ma tra su, di loro dai è un conto nel ma se io dico è Marrazzo, importante chi dice le cose, aspetta, te lo devo dire ancora. Se la io dico Marrazzo, se io dico quel frocio di stare a scuola è un professore, un bravo ragazzo, invece di chiamarlo Francesco lo chiama frocio. Secondo te è offensivo o no? È come la stessa della parola negro. La parola ma negro nessuno, è una parola bravo, bravissimo. Se un ragazzo di chiamarlo Francesco lo chiamo negro o nero è comunque esatto. Che c'entra? Ma nessuno dice di chiamare quel frocio. Ho capito, ma se io dico Marrazzo sei un frocio, ma non è che ti offendo, cioè ma non è che no ti sto offendendo. Se tu lo dici a me con quel rapporto di confidenza e io esatto ti sto come gioco così, ma, chiaro, ma se tu lo dici dai, ad certo uno a scuola certo sul lavoro o in un contesto certo una persona che non conosci direi no però scusa allora, Marrazzo, frocio no ma volgare, quello che c'entra cattivo, ma ho capito Marrazzo, ma volete eliminare così, volete ma eliminare no la realtà, la volgarità, no l'insulto. Scusami Marrazzo, ma se io pronuncio però se io pronuncio la parola allora, se tu oggi dici ad esempio se finocchio oggi, si può dire finocchio? Uguale, dipende in che contesto lo dici. Se un ragazzo, il professore, invece di chiamarlo Marco, quello chiama io dico, quello è finocchio, quello è un finocchio. È discriminatorio? È offensivo. È ovviamente sì, per la persona. No, sì, violento, quello è un finocchio, ma non è offensivo. Io non lo dico, ma se uno dice quello è un finocchio, non può essere offensivo. Cioè, tu multeresti, tu sei oltre la legge Zan. Secondo te la legge Zan è troppo permissiva? Allora, la legge è quella legge contro l'omotransfobia. Purtroppo la legge che è stata approvata contro l'omotransfobia alla Camera non dà neanche gli stessi diritti che oggi ha la comunità nera o la comunità cioè, no insomma è una legge spiegami, è una prima legge dai spiegami giusto? Spiegami allora. Però noi non abbiamo neanche diritti che 40 anni fa hanno preso altri perché cioè? Oggi se io dico che un nero è inferiore o è malato commetto un reato. Se io invece dico che una persona ebrea è una persona malata o inferiore commette un reato, si andrà a dire che una persona lesbica, gay o trans e inferiore e malato, se ne sono convinto, quindi se non lo dico per offendere, ma lo dico perché sono convinto che loro sono inferiori. Se io non posso dire, non posso, scusami, se io non dico oggi l'omosessuale è un malato, non lo puoi dire perché lo ma dai, ma ho capito, io non lo dico perché è una follia, ma non puoi andare in tribunale, però scusami, se uno dice l'omosessuale è un malato. Ma è quello che chiediamo. Ma tu lo multeresti? Tu lo multeresti uno che dice l'omosessuale è un malato? Dimmi la verità. Allora, noi come partito chiediamo gli stessi diritti. No, ma se tu oggi dici che un nero è inferiore ed è un reato penale, allora deve essere la stessa cosa anche per i gay. Poi si può discutere. No, ma io sto dicendo oggi. Scusami, Marazzo, se io dico oggi l'omosessuale è un malato, secondo te bisogna andare in tribunale? È un reato penale, dovrebbe essere un reato penale, è un reato, punto. Non si dice reato penale. Marazzo, fermola. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Peppino, amico mio, io le chiamo anche Fanny Fart, quando dopo si alza che sta a pecora e fa è tanta roba. Allora ragazzi, abbiamo con noi il capo del neonato partito dei che gay. Partito dei gay. Sì, si parla anche di scorreggio vaginale. Ogni volta che andiamo in pubblicità, sai che tiro un sospiro di sollievo? Finalmente la pubblicità. Cioè, io vivo in funzione delle interruzioni pubblicitarie, perché è l'unico momento in cui sai che andrà in onda qualcosa di decente. Guarda cosa ti arrivo a dire. Scusami. Guarda cosa ti allora, arrivo abbiamo, a dire. Abbiamo però il capo del partito dei gay, ragazzi. Sì, il partito dei gay è straordinario. C'è un nuovo partito in Italia. Il partito dei gay. Va benissimo, questo è con l'ex però capo dell'Arcigay Fabrizio Marrazzo. Ora voglio chiedere a Marrazzo una cosa. Dunque, lui è sostanzialmente a favore del fatto che bisogna colpire alcuni reati d'opinione contro i gay, quelli che vengono fatti contro i gay. Se uno dice, per esempio, un omosessuale è malato, bisogna che sia multato, giusto Marrazzo? Se è malato non è un'opinione, è una discriminazione, perché l'omosessualità non è una malattia. Se oggi dicessi che gli ebrei sono malati, come ha detto la presidente della comunità ebraica, quella norma è sacrosanta e non va cambiata. Sì, ho capito, però ragazzi, ho capito, amico mio, però se uno dice che un omosessuale è un pervertito, un malato, non è che può finire in tribunale. Su, sarà uno, per chi se ne frega, dai. È un pregiudizio ed è una frase discriminatoria. Ma scusa, anche tu sei d'accordo con quelli dell'Arcigay, non so dove, che hanno detto l'altro giorno che l'espressione pigne nel culo è una discriminazione nei confronti dei passivi, siccome uno ha detto il sindaco di un posto, ti giuro. Quello dipende che contesto è stato detto, non so che hanno detto. Comunque, così l'hanno detto? No. L'espressione pigne nel culo è discriminatoria? Se hanno detto una frase di quel tipo, non so a chi l'hanno detto, può essere offensiva. No, non l'hanno detto. Ma ho capito ragazzi, però non è che può esistere la discriminazione dei passivi, Marrazzo, dai su, ma di che parliamo? No, dai. È una frase offensiva e basta, quella è una frase offensiva. Ma scusami un attimo, aspetta un secondo. No, voglio dire a Marrazzo una cosa. Dire che prenderlo nel culo, che il sesso anale è pericoloso, come fa spesso la dottoressa De Mari, per esempio. Vabbè, ma quella la dottoressa De Mari, secondo te, questa è una cosa che non riguarda né gay, ma e anche gli etero riguarda, perché anche gli eterosessuali hanno rapporti. Sì, è vero, però lei si riferisce ai gay in particolare. Cioè, lei dice sarà un problema anche degli etero, farà male, c'è chi piace e chi fa male. Quello è un problema suo. E quando la dottoressa De Mari dice no, quando la dottoressa De Mari dice che l'omosessualità è irreversibile, per esempio, che si può tornare indietro. Quello è sbagliato, perché ma è discriminatore, lo puniresti tu? Allora, perché in quei casi cosa vengono fatte? Vengono fatte le teorie riparative. Vi invito a vedere un film che si chiama Boyerized, che sono vite cancellate, che praticamente sono questi che fanno dei corsi alle persone lesbiche, gay e trans per farli diventare etero, ed è una cosa bruttissima. Sì, ma ho capito, ma dire che l'omosessualità è irreversibile, cioè si può tornare indietro, una cosa discriminatoria. No, è sbagliato, perché è sbagliato, è una cosa no, sbagliata. Ma va punita dalla legge? Se uno dice una coppia, un gay può tornare eterosessuale. Allora, se un medico lo dice, deve essere espulso dall'albo. Cosa succede? Se tu oggi sei uno psicologo in Italia, viene espulso dall'albo se dici una cosa come questa. Certo, in altri paesi esistono le leggi contro queste teorie che si chiamano le leggi. Ma i più omofobi in Italia, tipo? I più omofobi in Italia, allora, chi sono secondo te? In Israele, il mese scorso, due mesi fa, il rabbino capo di Gerusalemme ha detto che l'omosessualità è una malattia. Politici di destra e di sinistra hanno chiesto di attivare anche in Israele, come in Inghilterra. Ma chi se ne frega del rabbino? La legge contro le teorie paratie, perché a quell'affermazione corrispondono una serie di fatti ed azioni che vanno a far sì di rendere impossibile la vita delle persone. Ma non è così, delle teorie che un tempo fermo là. Allora, che fino al 1976 in Italia, ma ho capito benissimo. Fermo un secondo. Quindi quella roba è pericolosa. Ruggero, ci sei? Chi è Ruggero dei timidi? Ascolto. Eccoci qui. In quasi religioso silenzio. Allora, quasi, Maurizio Ruggero è un esponente ultracattolico. Ma di un movimento che non esiste, del Sacro Romano Impero. Ma non esiste nessuno. Allora, come vede Maurizio Ruggero, che considera l'omosessualità sostanzialmente una perversione, un peccato, e vuole addirittura ristabilire qualche legge, diciamo, del 600, non mi ricordo, del 600, del 700. Leggi, allora, intanto il rogo, tu vorresti il rogo addirittura, il rogo. Intanto constato con piacere, diciamo, che il parterre demoniaco si è arricchito adesso di un nuovo partito, diciamo così, che come demoniaco, il vostro parterre demoniaco e quello della altrettanto demoniaca Democrazia Parlamentare si arricchisce adesso di una nuova meraviglia, che sarebbe il partito di Sodoma. Ruggero lo puniresti? Che dice il partito di Sodoma, lo puniresti tu? Una società tradizionale non è neanche concepibile una roba di questo genere. Qui siamo al rovesciamento più radicale. Tu il partito dei gay non lo ammetteresti, cioè non lo cancelleresti il partito, allora, dei... Io sono contro la democrazia, figuriamoci se adesso ammettiamo il partito di Sodoma, cioè, ci mancherebbe solo quella adesso. Scusami Marrazzo, secondo la tua opinione Ruggero andrebbe... Aspetta, Ruggero. Sicuramente tra le opinioni offensive questo certo, è poco ma sicuro. Quindi sicuramente questo non può avere nel tuo mondo ideale, Ruggero è uno che non avrebbe diritto di parlare, diciamo. Ma non di parlare, di prendersi la responsabilità delle fregnacce che dice, di essere condannato. Siamo arrivati al punto. Sulle cose che dice, perché lui dice delle affermazioni che sono antidemocratiche, perché va rispettata qualunque forza politica, e dopodiché noi non siamo il partito di Sodoma, perché è il partito di Sodoma, Ruggero, scusami, perché il partito di Sodoma? Allora, se i sodomiti sono quelli che praticano il sesso contro natura, questo è il partito di quelli che praticano il sesso contro natura, è praticamente una ma perché una contro natura? Se tutti lo pigliano in culo da una vita, scusa, la gente lo mette e lo prende in culo da una vita. Ma io lo parlo in generale, niente. Ma parla per te e per quelli che fanno le stesse pratiche che fai te o che fa il signor Marrazzo. Io queste robe non le prendo e non le faccio, quindi, ma non le fa neanche la persona normale, voglio dire. Dunque Marrazzo non è normale, è varia, una persona sono quelli le frasi discriminatorie, sì, però, ci siamo stufati di questa vostra mania antidiscriminatoria, di questo vostro antirazzismo strumentale. Non è normale perché non è secondo natura. Il rapporto secondo natura è quello tra uomo e donna. Dunque Marrazzo non è normale secondo te? Nella misura in cui pratica un sesso contro natura, no, evidentemente su questo punto non posso dire che abbia ragione. Dunque è normale contro natura. Fabrizio Marrazzo, capo del partito dei gay, neonato partito del sesso contro natura. E allora? Che cos'è un pervertito? Che cos'è? Allora, si chiama peccato impuro contro natura. È uno dei quattro peccati che grida vendetta al cospetto di sono altri. Vedete che siete fuori anche la superbia, l'invidia. Ma tu che cosa? Se tu decidessi, che cosa faresti a Marrazzo? Tu nel tuo mondo ideale, a Marrazzo cosa faresti? Allora, bisogna distinguere l'aspetto privato. Non c'è nulla da distinguere. Mi fate dire o volete? Se volete la risposta, ve la do. Lei dice delle bestialità offensive il più delle volte. Perché mi voglio allontanare completamente da allora, Lei si rende ridicolo. La figlia persona del nostro tempo che si accoda in maniera schifosa a quelle che sono le ideologie ridicolo del nostro tempo. Ruggero è da denunciare, Marrazzo. No, è patetico. Ti ha detto che non sei normale, denunzialo. No, comunque quello poi è da verificare, però sicuramente affermazioni di questo tipo sono quelle affermazioni che poi fanno generare discriminazione e mettono da parte le persone, cioè dire che una persona solo perché è omosessuale contro natura. Secondo te è un istigatore anche alla violenza, Ruggero? Sicuramente un istigatore alla discriminazione, perché capito Ruggero, istiga la discriminazione, Ruggero, istiga la discriminazione. Se tu istiga una persona contro natura che non è che viene descritta come no, ma gli dobbiamo mandare i bomboni a casa, fare un avanzamento di carriera, dargli una gratifica, un aumento di stipendio a voi sodomiti, perché questo che voi sodomiti, no, è una persona non vi sodomita, vi dobbiamo portare in cielo addirittura, ma è una persona non sodomita, ci dobbiamo ginocchiare con Black Lives Matter, no, quando voi passate, ma che cosa state pretendendo, ma scusa, ma non ho capito, ma che rovesciamento ma radicale per, della verità, ma è una persona voi, non sodomita, ma giustamente pazzesco. Una volta vi venivate discriminati dalle leggi dello Stato, ma come giustamente? E giustamente, quando si trattava di salvare la vostra anima, ci si occupava della vostra anima, perché si deve distinguere sempre fra il peccato privato. Fermi tutti, fermi tutti. Siamo tutti, siamo alla follia. Marrazzo, ciao Ruggero. Ciao. La Zanzara. Tu sei una razzista, sei un ipocrita, sei una falsa. Tu confronti altri, tu sei più testa di cazzo di altri. Ma chi è? Tu vuoi solo raccontare la gente, cercare di nascondere dietro di quelle che dicono altri, ma tu sei peggio di tutti, tutti, tutti dei peggi. Perché quella lì di Roma, voi dovete finire una cosa, uno, due, prima italiani, prima italiani, ma dove cazzo siamo? Cosa vuol dire prima italiani, prima italiani? Se la signora ha i diritti di avere, la legge l'ha consegnato la casa, cosa c'entra i diritti prima degli italiani? Questo lingua la dovete filare nel culo, dovete finire uno, due prima degli italiani, non esiste quello che dice, si chiamate un paese democratico. Tu, secondo me, potevi anche andare a fare tessere del Lega Nord. Questo qua, manco so sono l'unico che non ha capito un cazzo di quello che ha detto. No, ha detto che ha detto delle cose anche importanti. E quindi dimmene una che è cruciale, è un razzista, fa parlare, che fa parlare i razzisti. Questo è vero, è inevitabile che magari poi qualcuno confonda. No, cruciale non è razzista, su questo vi posso rassicurare perché lo conosco da più di 10 anni ormai. Fa parlare i razzisti, sì, è vero, questo è un problema ed è un motivo in più per chiedere la chiusura di questa baracca. Questo non c'è dubbio. Ma non è una posizione nuova la mia, diciamo. Questo allora c'è questo signore che si chiama Cianciarelli, che è un professore che sostiene Cianciarelli, è un professore anche. Io conoscevo Cencelli, quello del manuale, no, Cianciarelli. Non Cianciarelli. Bill Gates usa Quantum Dot per marcare i bambini. Senti, sappiamo per esempio che Bill Gates è l'università del MIT, cioè del Massachusetts Institute of Technology, praticamente hanno usato una e stanno usando una tecnologia che si chiamerà Quantum Dot, cioè? Ma diciamo così servirà per marcare fin quando ancora è dato di farli nascere i bambini. Per marcare i bambini. Il vaccino è il marchio della bestia. Senti, questo è il marchio della bestia. Questo è interessante come cosa. Il vaccino è il marchio della bestia. Anche no. Infatti i ricercatori, diciamo, del MIT, di questa università, sì, finanziati a son di miliardi ovviamente dalla Bill e Melinda Gates Foundation, sì, e dalla National Cancer Institute, sì, hanno escogitato un sistema di monitoraggio proprio di un vaccino, come si suol dire, loro lo chiamano totalitario, che vuol dire? Che però viene definito, e qui già la cosa incomincia a preoccupare, proprio marchio della bestia. Mamma mia, chi l'ha definito marchio della bestia? Non lo so, io sento una quantità di... sto cercando di capire. Chi l'ha definito il marchio della bestia? Bill Gates. Ma in collegamento la negazionista per eccellenza, Daniela Martani, buonasera. Ma che negazionista, che stai dicendo? È ancora in circolazione questa cosa, è ancora in circolazione, ancora parla. Sono ancora in circolazione, sì, caro mio. Ancora guarda, non parla. Non so se io abbia provato in tutti i modi a prendere ancora il Covid, parla. Non l'ho preso. Tieni, ancora questa cosa parla. Mi ha fatto essere l'ombrello. Cioè, ancora parla. Non ho capito una cosa, tu hai tentato in tutti i modi... Hai detto... No, diciamo che ho cercato di vivere normalmente come ho vissuto fino adesso, sì, ok? Sì, come la mia vita, cioè, fino ai 46 anni. Da squinternata, da squinternata. Cercando di... Non squinternata, non squinternata. Squinternata, non squinternata. C'è paura pure di un virus, cioè, ma di... I virus esistono da 10.000 anni, virus, ma ti rendi conto? Cioè, paura di ma virus. Molto di più. Io non ho nessuna paura di nessun virus, no, nessuna caro, paura. Notizia, ma lo sai che i virus sono tutti zoonotici e sono iniziati quelli, insomma, questi qua. Da quando sono stati allevati gli animali, da quando noi siamo entrati in contatto con gli animali, li abbiamo iniziati ad allevare. Quindi adesso ma questo certo, è il karma. Ma non è che questo ci il karma. E dopo questo, come caro mio, arriverà un karma? Altro. Come il karma? Certo, karma. Il karma è un camionista. Come il karma? Il karma è un camionista. Come no, aspetta, qui. È un virus, qui però, sì, anche. È karma, perché chiaramente quando karma? Tu sfrutti, uccidi, ammazzi gli animali, ok, che è hanno pazzo, il loro virus ormai. All'interno del loro è corpo, pazzo, ti sprigionano, no, vatti a studiare un po' di, beh, di questa roba qua, caro mio, karma, tu sei un ignorante, sì. Parli, no, sì, però scusami, tua. Però aspetta, e su questo, però, karma. Però, ma, io devo, sì, ma io devo farmi dare delle lezioni da Nagatara, da una mortacciona Nagatara, ma vuoi spiegarmi, ma mi devo far dare le lezioni da una mortacciona Nagatara, stracciona che non fa neanche la cantante sotto, e devo farmi dare no, le lezioni da questa ragazzi, qua. Fermi tutti. Allora no, però qui andiamo al punto fondamentale. La Martani sostiene che ma chi è tutto frutto del karma, del karma. Allora, il karma. Ascoltami bene, ascoltami. Beh, il karma però è interessante voi... perché dice uno, scusami, sai il karma. Scusami, Bassetti qualche giorno fa, no, non ha detto il karma, Bassetti però il karma non l'ha detto. Ma è dispettito perché fanno parlare Ilaria Capua che è una veterinaria, no? Perché non so, secondo te fanno parlare la Capua che è veterinaria? Perché? Non lo so, perché i virus sono tutti di origine zoonotica. Ok, ma che c'entra il karma? Cioè, che c'entra il karma? Perché noi stiamo distruggendo l'ambiente. E dunque l'ambiente, è una vendetta. No, il karma, no, il karma, c'è la natura, si sta rivoltando. Parola, ma lo conosci? Come? Lo conosci? Il significato vero della parola karma, la conosci? Cioè, dunque, aspetta, dunque, lo sostanzialmente la natura il si sta vendicando. Significa che è il karma, sono una serie di azioni che noi compiamo, ok? E che quindi... Ma tu sei a favore dello sterminio dell'uomo, questo è il punto. Tu vuoi il mondo... Capito, Daniele, tu vuoi che tu se vuoi lo sterminio dell'uomo, questo è il punto. Voi vi dovete sentire, dai. Voi vi dovete ascoltare, cosa? Dovete leggere i libri di Stefano Mancuso. Ogni tanto, Cusani, certo. Invitalo anche nella tua trasmissione, che fai un po' di informazione. Ecco, rendi un po' questo programma anche acculturato, perché Stefano Mancuso è un saggista molto importante, professore. Parla di questa roba qua, che noi siamo degli esseri destinati all'estinzione. È uno scienziato, siamo gli Vito Mancuso, esseri viventi sul pianeta scienziato, più stupidi, più stupidi in assoluto che ci sono sulla, perché sono gli studiati esatto, avendo studiato te, Martani. No, è logico, si sta scattando Gottardo, esatto. Che stanno distruggendo l'ambiente in però, cui scusa, a parte il karma, scusa un attimo, scusa, a parte comunque, che sono intelligente. Comunque volevo raccontare la mia giornata veramente assurda e a Milano, perché sono venuta a Milano. Vabbè, zona arancione, okay, senza lo straccio di un uomo, senza la tua giornata senza l'ombra di un uomo, ma quale lavoro? Ieri ero dalla D'Urso. Comunque, scusa, Cruciani, posso fare un annuncio? Era dalla D'Urso, è lavoro. Volevo chiedere se mi seguono su Twitter, su Danny Martani 1, perché sono stata bloccata sul mio perché profilo. Sei stata bloccata? Scusa, perché sono stata bloccata perché ho espresso delle opinioni, tanto ormai qua c'è una censura tremenda, ho visto anche la professoressa Mari. Perché ho detto che i cinesi sono uno dei peggiori virus che esistono sulla faccia della Terra, cioè chiaramente. I cinesi sono uno dei peggiori virus. Ma in cinesi quanto persone, quanti, quanto popolo? In quanto popolazione, chiaro? Come è chiaro? Della legge Mancino. È un reato. Ma cosa vuol dire chiaro? I cinesi in quanto popolo sono una viola. Ma che la cazzo legge dice? Gatara, che dici? Comunque, i cinesi in quanto popolo, miliardi di persone nel mondo sono un virus. Sì, ma questa è scema col botto proprio. I paradossi dei DPCM assolutamente inutili. Ma io dico, allora, ieri sono arrivata, mi sono dovuta ordinare il pranzo e la cena a casa. Vabbè, quello ormai io lo faccio ormai da una vita, ho capito. Per me è assurdo. Io potevi esiste, cucinare? Io non ho mai utilizzato queste magari applicazioni. Magari se cucini un uomo lo trovi. Non è che devi ordinarti il pranzo e la cena. Io non sto a casa mia, che cucino? Scusami, che non sto a casa mia. C'è una cucina, cucini, dai cazzo. Sono andata a fare colazione. Non si può fare colazione. Ecco, appunto, sono andata in un bar e quella mi ha messo la spremuta in un bicchiere di plastica. Quindi dai, aumentiamo la plastica. Vabbè, capito, poca, ma i bar, no? Sono chiusi, che devi fare? I bar sono chiusi. Ok, mi sono presa la mia roba da mangiare e l'ho dovuta consumare sul marciapiede in mezzo al traffico. Ne ho un po'. Quello, quindi, che fai sempre normalmente. E quindi ergo. Quindi io mi sono dovuta respirare lo smog mentre mangiavo. Oh, quindi non posso morire di COVID, ma posso morire di tumore, perché tanto ormai di tumore fino adesso sono morte. Oh, ti avverto che la Ferragni è stata insieme a Fedez, sono stati premiati l'Ambrogino d'oro. Alla faccia tua sono stati premiati ancora schifo, una volta. Dello schifo. E adesso guarda, io veramente adesso mi denunciassero un'altra volta, perché voglio dire che mi fanno schifo. Perché ti fanno schifo? Perché devi dire che ti fanno schifo? Allora, prima cosa, intanto il filmato di Fedez che fa il bimbo minchia, perché dice che è stato assolto dalla PM, perché ha fatto il diritto di critica. Non ha festeggiato Fedez quando sono stata assolta io dal PM dopo tre ricorsi. Questo, perché ti fanno schifo? Ma perché ti fanno schifo? Perché ti fanno schifo? Perché adesso la signora Ferragni, in un'ultima sua foto di merda su Instagram, no, perché ha foto di merda? Le foto su Instagram, di allora, Birkin con pelle di coccodrillo del Nilo, che tra l'altro ottimo, è un animale, il coccodrillo, che bisogna fare con coccodrillo? Bene, ottimo, le borse di coccodrillo, ma sono ottime le borse di coccodrillo. Che fa a me una donna così mi fa schifo, capito? Poi soprattutto in una situazione del genere. Sta parlando la signora Daniela Martani. Sta parlando la signora Daniela Martani. Io prendo le distanze, bravo, perché esatto. A me la Ferragni non fa affatto schifo. No, anzi. Cioè, è una donna intelligente e brillante. E non è una gattara mortacciona come te. Questo bisogna anche dirlo. Ha del talento. Che talento hai tu? Sai cantare? No, sai solo andare dalla D'Urso. Che per carità, può essere un talento anche quello, ma limitante. Io voglio capire una cosa, ragazzi, non ho capito che male c'è a fare una borsa, a fare pubblicità per una borsa di coccodrillo, me lo devi spiegare. Stai scherzando? Ma qual è il problema? Il coccodrillo è ottimo, che cazzo ci fai con coccodrilli? Perché devo diventare delle borsa, ma come cazzo ragioni? Allora se mi viene voglia di farmi una borsa con i capelli, con gli scalpi degli uomini, ma sarà diverso, no, la borsa di coccodrillo, il coccodrillo non è come... Troia. Ma porca puttana, sono esseri innocenti che vengono scannati. Se sei un antilope, non è tanto innocente il coccodrillo, ti sbrana. Senti questa che bella? Che cos'è? Cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Ma cosa c'è? Aspetta. Il cane? Bau bau. Bau bau. E il gatto? Mia. Aspetta. L'esinello? La mucca? Allora? Aspetta. La rana? La pecora? E il coccodrillo? Coccodrillo come fa? Posso dirti una cosa? Quello di Germano Mosconi. Posso dirti una cosa? Viva le borse di coccodrillo. Ma qual è il punto con le borse di coccodrillo? Ma per me non è la Martani. Un coccodrillo non è la Martani. Preferisco la Martani al coccodrillo. Ma secondo me si devono uccidere degli animali per farli diventare delle borse. Ma non è che delle borse, anche delle scarpe. E chi se ne frega? Ci sono delle persone che portano le scarpe anche. Perché la pagano? Perché la pagano? Ma a me è una persona che si vanta, ok? Ma la pagano, perché? Ma che pagano? Ma beh, certo, la pagano, la pagano. Ma ha dovuto fare un sacco di documenti, perché questa borsa in molti paesi è vietata, perché non si può, perché questo animale è un animale in via di estinzione. Ma come cazzo ti viene anche in mente? Anche le scarpe fanno. Anche le scarpe fanno. Di schiaffi gli avrei dato a sti due. Sono due persone finte. Ma no, sono lascia finte, perdere finto. Che livore. Mamma mia, che livore. Che livore. Anzi, posso dire. No, il conto corrente, giustamente. Seguite me. Sì, vabbè, buonanotte. Capito? Io non mi faccio comprare dai soldi. Seguite la gattara. A me tu mi vuoi pure venire con la borsa Birkin di 250.000 euro di pelle di coccodrillo e ti dico, piccatela in quel posto, perché io non mi farò mai. È sempre la signora Martani che sta parlando, Parenzo, precisiamo. Esatto. Sempre per la procura all'ascolto sta parlando la signora Martani. Martani, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. erano 25 persone lì. Lì. Stanno là. Lì. Oh.